passione di fare i filmini, così ho registrato il treno, ho registrato il rumore dei treni, conosco tutti i treni, prima ne passavano circa 170 al giorno, no? Per andare e ritorno, così. E li ho registrati tutti, quindi sapevo quali erano i treni merci, quelli veloci, meno veloci, e quindi ho tutto, quindi ogni tanto quando mi viene la nostalgia del treno, metto sul filmino, in televisione, faccio il rumore, sento il treno.